treno che passa e ti porta in America. Quando esco di casa sorvolo la città, atterro in campagna su una rana che canta con la proboscide, fa ah ah la fisarmonica, ah ah, ma lo fa con la calma perché nessuno la mangia. Con la proboscide fa ah ah la fisarmonica, ah ah, ma lo fa con la calma perché nessuno la mangia. Come i boomeranghi, come i boomeranghi, ballo e poi bevo tequila, se io i vicini con le maracas, maracas. I boomeranghi, i boomeranghi, ballo e poi bevo tequila, se io i vicini con le maracas. Ho ritrovato me stesso, ero dentro la musica, semplice e vera, come i colori dell'Africa. Con la proboscide fa ah ah la fisarmonica, ah ah, ma lo fa con la calma perché nessuno la mangia. Come i boomeranghi, come i boomeranghi, ballo e poi bevo tequila, sveglio i vicini con le maracas, maracas. I boomeranghi, vicini con le maracas. Io cacca pumi sapu mi andar tuya, io inco ira lutar tua, io machiga ni den purieta, machiga purieta. Io cassata ma sapu mi andar tuya, io inco ira lutar tua, io machiga ni den purieta. Come i boomerangi, se io i vicini con le maracas, maracas, maracas. I boomerang.